Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Puntata numero 362 del Soundcheck di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera Francesco Tromba. Ciao a tutti. Sono felicissimo perché dopo l'informazione delle 20 apparirà nel nostro studio, qui nel Groovemaster Studio, una bellissima ragazza, una bellissima donna, bravissima autrice, compositrice e cantante eccezionale, ovvero la nostra amica Greta Panettieri. Beh, anch'io sono molto contento. Sì, sono contento anche perché voglio parlare con Greta di questo nuovo album appena pubblicato e sta andando anche benissimo, si intitola Sgretolata, ma col doppio titolo italiano e inglese, chissà perché, Sgretolata Shattered. Perché non è proprio la traduzione letterale di Shattered, lei l'ha tradotto a modo suo Sgretolata, proprio perché appunto è un concept in realtà. Sì, e poi è un album dove ci sono composizioni originali in italiano e altre in inglese, quindi forse anche per questo motivo cerca di colpire su mercati diversi. Sì, in realtà sembra quasi più una compilation, nel senso che ogni brano è diverso dall'altro, sia per genere che per proprio mood del brano stesso. E questo perché Greta è un'artista curiosa e tra l'altro ha frequentato ambienti musicali diversi quando viveva a New York, spaziando dal jazz contemporaneo agli standards più classici, musica brasiliana e anche qualcosa di lirica ha fatto, quindi insomma un artista che la sa lunga. Eh sì, fortissima, assolutamente. Dunque ci siamo, mio caro Francesco, siamo pronti per la puntata, siamo pronti anche per la musica. Intanto voglio dirti che siamo quasi a un passo dal Natale. Eh sì, manca praticamente una settimana, bisogna prepararsi anche con i regali. Ecco, puoi fare i regali ma li consegnerai alla tua famiglia dopo Natale. Come, perché? Perché il soundcheck capita proprio di sabato e di domenica e quest'anno sia la vigilia che il giorno di Natale sono di sabato e di domenica, quindi ti tocca restare qui con me e festeggiare il Natale con tanto di cene, pranzi e un sacco di vettovaglie da mettere su insieme alla mia famiglia. Beh dai, almeno porteranno qualcosa da Foggia. E come no, porteranno un sacco di roba, papà me l'ha già detto, vedrai che riusciremo anche a fare una puntata, forse quella della vigilia la facciamo insieme a papà. Ah, allora fighissimo, perché comunque con lui c'è sempre tantissimo, sì, da imparare. Mi ha detto guarda, perché, ma me l'ha detto, io infatti siccome è sempre il mio papà, no, io lo sto a sentire, mi ha detto perché non realizziamo una puntata con tutte le canzoni, quelle belle di Natale di una volta, quelle che ascoltavo io in radio con la nonna. E vabbè papà, vuoi farla? La facciamo insieme. Beh, alla fine è il momento. No, ma è bello, perché noi abbiamo realizzato le puntate di Natale sempre con l'R&B, col gospel, no? Mm-hmm. Invece sì, quest'anno vero. Andiamo proprio sui grandi classici. Facciamo... Beh, alla fine apparecchiare la tavola con Louis Armstrong e Ella Fitzgerald. Esatto, ma anche, che so, Dean Martin, no? Frank Sinatra, certamente. Fantastico. Bing Crosby. Sì, richiamano l'atmosfera. Chiamerò dai. Papà e gli confermerò la sua partecipazione al soundcheck per la vigilia di Natale. Va bene, ma oggi invece abbiamo tanta musica nuova, poi lo abbiamo già detto, dopo l'informazione ci sarà Greta Panettieri, direi però di partire subito con un grandissimo talento, bravissimo musicista, io lo conoscevo come batterista, perché come batterista ha suonato veramente con i numeri uno, giovanissimo, da John Scofield a fammi dei nomi. Sì, ma anche nel pop, con Beyoncé, poi Marcus Miller, Snarky Puppy, Mariah Carey, Q-Tip, John Legend, no, con tutti ha suonato. Un batterista eccezionale, credo che proprio è il prototipo del batterista contemporaneo, spazia senza problemi dal jazz al blues al funk, contemporary R&B, hip hop, richiestissimo, si chiama Luis Cato, certo non è ancora famosissimo, però credo che dopo la pubblicazione del suo primo album da solista inizierà a farsi notare e quindi dovrà mettere lui sulla band e portarsi dietro un batterista più forte di lui, che è una cosa difficilissima. E infatti leggendo un'intervista lui dice, lui sa suonare 5-6 strumenti benissimo. Benissimo, anche a parte pianoforte, chitarra, canta benissimo, ma suona anche il trombone bene. Eh sì, poi il basso anche, sì. Elettrico, contrabbasso. E lui bravissimo, dice, bravissimo. Se io di solito ovviamente preferisco suonare la batteria o il basso, però se alla batteria ci fosse Chris Daddy Dave e al basso elettrico Marcus Miller, mi adatto e suono la chitarra. Ecco, benissimo, si chiama Lui Scato e questo è il singolo che anticipa la pubblicazione del suo primo album come solista, In My Reach. Lui Scato al soundcheck di Radio 24. Lui Scato per la prima volta fa la sua apparizione qui al soundcheck di Radio 24 con il singolo che anticipa l'album, si intitola In My Reach, e allora direi di fare scopa con un altro brano che a noi è piaciuto tanto, tratto dalla nuova pubblicazione del trombettista giapponese giappo-americano. Come, eh? Sì, perché alla fine sì. Vive penso da più tempo negli Stati Uniti ormai. Sì, ne abbiamo parlato di Takuya Kuroda, l'abbiamo conosciuto con Cosé James, diplomato alla Berklee College of Music, qui in compagnia di un altro vocalist eccezionale che poi firma le sue pubblicazioni per la Rope Dope. Si chiama Corey King, Takuya Kuroda al soundcheck con Do They Know. Soundcheck, il suono della musica. E credo che Common, con il nuovo album intitolato Black America Again, che noi abbiamo presentato qualche weekend fa qui al Soundcheck di Radio 24, mi ripunti proprio ai Grammy Award quest'anno. Beh sì, ha messo su una scuderia, una band, dei featuring, cioè c'è anche Stevie Wonder per dire. Quindi... c'è anche Stevie Wonder, ma a me piace tantissimo questo brano Red Wine, che probabilmente è stato scritto nel periodo romano. Durante, non posso dire le vacanze romane perché era a Roma più o meno un anno fa per lavoro, però credo che il pezzo lo abbia scritto qui dietro un bel bicchiere di vino rosso. Beh sì, sicuramente si è ispirato, comunque ha ricordato l'Italia mentre scriveva questo brano, perché c'è anche un pezzettino in cui parla in italiano e cita proprio Roma. E per realizzare questa composizione ha chiamato in studio Sid the Kid, non male Beh Non una male. Grandissima. È un'altra formidabile giovane interprete, che poi è una flautista accreditata, che è Elena Pinderhughes, che qui invece si cimenta con il canto e lo fa anche molto bene. Sì, è anche una gran bella ragazza, devo dire. Figurati se non ti doveva sfuggire il dettaglio. Bene, da un po' di tempo stiamo attenti all'ambiente del rap, perché... Perché vengono fuori delle cose molto interessanti negli ultimi tempi, c'è un movimento di queste nuove leve, nuove generazioni che stanno facendo delle cose molto interessanti. È vero, è più interessante del periodo gangsta, che io trovavo sinceramente abbastanza noioso musicalmente parlando. Sì, era un po' monotematico, diciamo. Sì, ma anche monotono proprio musicalmente. Sì, è molto autoreferenziale. Anche. Sì. Anche invece adesso la nuova scuola mette al centro comunque sempre la musica, non mette al centro il rapper o il frontman, c'è sempre la musica. Sì, e anche le tematiche affrontate nei testi non sono quelle solite con insomma delle storie tipiche del ghetto californiano con pistole, mitragliatori, droghe, sì, faide, insomma non solo storie terribili o squallide. No, infatti. Allora, e infatti, siccome siamo attenti all'ambiente dell'hip hop contemporaneo, proprio perché musicalmente in qualche modo non ci dispiace, abbiamo trovato un altro giovane talento e l'abbiamo scoperto sempre con il solito metodo, quello di seguire dei sentieri, e il sentiero qui l'aveva tracciato il nostro amico Anderson .Paak, che ci ha fatto conoscere questo signore che si chiama Domo Genesis. Sì, il suo nome di battesimo è Dominic Marcus Cole, californiano anche lui ovviamente, come la maggior parte dei rapper più forti. Attenzione però, ricordiamo che adesso c'è la scuola di Chicago. La scuola di Chicago adesso è diciamo, la mia proprio, preferita. Proprio recente, appena uscita, a parte Common che fa parte della generazione precedente. Però appunto Domo Genesis ha fatto questo featuring con Anderson .Paak, che secondo me è veramente fortissimo. Il brano si intitola Dapper, Domo Genesis, Anderson .Paak al soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. If you are here, Quanto mi piace questo brano, si intitola Here, il sound di Eric Lau con la voce di Rahel qui al soundcheck di Radio 24, un brano prodotto un paio di anni fa ma ancora attualissimo. Sì, perché lui è veramente un campione dell'elettronica, però in quasi tutte la sua caratteristica principale è che comunque ci mette sempre dentro una base ritmica molto forte di batteria soprattutto. Ovviamente, essendo londinese e inglese, non poteva non sfuggire a Giles Peterson. Ma quanto è bravo Giles Peterson! Sì, li scova tutti veramente. Attentissimo! Sì, lo ha inserito infatti in una sua compilation già 4-5 anni fa. Sì, formidabile talent scout, eccellente producer di programmi radiofonici che hanno svezzato intere generazioni di musicisti appassionati di musica lì a Londra, in Inghilterra, con i programmi fatti per la BBC, e poi attivissimo sui suoi social network e varie web radio. Sì, adesso c'è la sua web radio che si chiama Worldwide FM, quindi trasmette da dove capita in realtà, perché lui è spesso in giro per concerti, quindi magari se si trova in un negozio di dischi in Germania fa la trasmissione da lì con gli ospiti che magari sono lì a suonare in quel momento, in quel preciso giorno, tutto molto improvvisato. Beh, lo abbiamo fatto anche noi, no? Sì, un paio di volte. Non eravamo in sede, abbiamo approfittato anche noi della nostra mini alta tecnologia, poi adesso trasmettiamo qua dal Groovemaster Studio, però questo è il concept contemporaneo, quello di portare i radioascoltatori o i telespettatori a visitare luoghi diversi dal solito ambiente insomma tipico dello studio televisivo o radiofonico, ed è una cosa che noi facciamo con variazioni su tema. Credo che la scommessa sia stata vinta su Rai 5 proprio anche per questo motivo. Sì, noi in realtà inizialmente avevamo qualche dubbio, nel senso che pensavamo fosse un programma un po' troppo fuori dai canoni e magari poteva non essere capito inizialmente. Ma è così comunque. Sì, è sicuramente un programma fuori dai canoni, sì. Però grazie a Dio stiamo ricevendo complimenti da tutte le parti, veramente. Sì, e siamo anche molto amati dai musicisti, sì, perché è una categoria che non è mai stata considerata. Insomma, quando si fa televisione di solito si parla della vita o si fa promozione alle grandi star, no? Insomma, sì, ma mai ai musicisti, che alla fine sono il cuore, l'anima anche dei cantanti. Ecco, credo che poi anche la cosa vincente del programma sia il fatto che utilizziamo il linguaggio dei musicisti con i piedi per terra e anche un grande senso dell'umorismo. Sì, assolutamente, quella è l'arma vincente. Sì, che è quello che poi hanno tutti i musicisti, quindi per me era inutile tornare in televisione e fare il bravo e competente esperto di musica, proprio per me non ha quasi più senso. Sì, anche perché ci sono tanti altri programmi che sono già stati prodotti prima, che sono comunque validi per quello. Certo, perché il mio obiettivo oggi è divertirmi con la musica. Io l'ho detto spesso, è stata la salvezza quando ero ragazzo, oggi è la mia terapia e quindi mi fa stare bene e mi voglio divertire, e spero che questo messaggio arrivi anche ai telespettatori di Rai 5, così come agli amici che ci seguono qui su Radio 24 ormai da 4 stagioni. Allora, siamo quasi arrivati alla fine di questa prima ora, fra pochissimo l'informazione di Radio 24 e dopo l'informazione di Radio 24 arriva questa bellissima ragazza, un grande talento italiano, tanti anni a New York, una vocalist eccellente, ho fatto tanti concerti con lei, una bravissima autrice, ha scritto molti testi anche per le mie composizioni, quindi Greta Panettieri sarà con noi qui al Soundcheck. Sì, non vedo l'ora di farle un paio di domande, ho visto anche il video di I'm in Love, che è molto interessante, infatti vorrei farle un paio di domande su quello. Ma andiamo all'informazione di Radio 24, accompagnati dalla musica e dal sound di questa band. Anche questi signori hanno firmato per Rope Dope, il brano si intitola Give Me Your Heart, album The Feel, sono RC and the Grits al Soundcheck. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Pronti per la seconda parte del soundcheck di oggi qui su Radio 24, e sono felicissimo di avere ancora una volta avanti a me, ma dopo un po' di tempo, forse è passato troppo tempo perché ho bisogno di incontrarla per sentirmi meglio, mio caro Francesco, bellissima, devo dire, stai in grandissima forma. Ladies and gentlemen, madame et messieurs, put your hands together, Greta Panettieri in persona. Buonasera. sono contentissimo anch'io di averlo in studio. C'è un colore diverso. È vero? È cambiato tutto. Stai veramente bene. Anzi, grazie. Devo dirti proprio una cosa, che nella la fotografia che avete scelto per la copertina di questo nuovo album, sì, ti ritrae, non so se su della lava incandescente in mezzo alla nebbia, su delle rocce, se sei su degli scogli. Fatto sta che tu sei, guarda Francesco, sugli scogli con scarpe con tacco, un vestitino a tubino nero, e la trovo splendida. Sei quasi indisponente in questa fotografia. Bellissimo, indisponente, lo prendo come un complimento. È un complimento. Allora, bellissimo. Intanto raccontaci perché hai scelto questo titolo, Sgretolata. Chi è dedicato questo album o questo titolo? Shattered, Sgretolata, a te stessa o all'Italia? Ma sicuramente è un titolo che può essere multifunzione, multivalente sicuramente, per cui è anche contemporaneo, diciamo, per i nostri tempi. Io ovviamente... Assolutamente sì. Vero? Diciamo che ho pensato di rivolgerlo a me stessa, però vedo che ci sono delle affinità anche con altri argomenti più attuali, quindi volendo... Questo mondo forse è un po' sgretolato, solo che nel mio sgretolamento diciamo che l'idea è costruttiva e positiva, quindi speriamo che dia un po' di forza anche appunto, quindi, nel senso, alla qualità. Abbattere per ricostruire? Esatto, più che abbattere, sgretolarsi per diffondersi, per raggiungere angoli più remoti. Hai capito che concept elevato, Tromba? Non so se ci arrivi tu. No, ci arrivo, assolutamente. Ci sei arrivato, va bene. Allora, comunque complimenti, il disco è fatto molto bene, anche perché lavori sempre, purtroppo, con il tuo fidanzato, con Andrea Sammartino, che è diventato bravissimo. Ormai fate coppia nella vita e nel lavoro da tanti anni. Quanto tempo? Allora, è il 2016 ancora, sono 12 anni e mezzo, che proprio è anche coppia, però in realtà che ci conosciamo e che lavoriamo, è meglio che non lo dico. Anche di più. Beh, la cosa aiuta o no? Ma finora credo di sì, poi diciamo che sarà solo il futuro a giudicare. Sì, oramai è andata, no? Oramai è andata. Gigi, non dire così. No, dopo 12 anni e mezzo, dai, dopo 12 anni e mezzo, oramai la coppia si è consolidata, no? Beh, sì, sicuramente. Guarda, lo sgretolamento invece è un concetto da comunque applicare in tutti i campi, per cui bisogna sempre rinnovarsi. Anche nei rapporti. Anche nei rapporti, anche negli stessi rapporti. Va bene, comunque, ecco, per chiudere poi questa fase gossip dell'intervista, sì, quanto è complicato avere un rapporto, come dire, affettivo con una persona con la quale anche si lavora in studio o viceversa? Allora, guarda, io sono dell'Ariete e Andrea è dei Gemelli. Diciamo che sotto questo punto di vista andiamo molto d'accordo. Per cui in realtà ti dirò che la musica ha aiutato momenti di difficoltà o magari di incomprensioni personali. Per cui... andiamo abbastanza d'accordo, sai? Bene, allora, il disco è bellissimo, io lo consiglio a tutti gli appassionati di musica, non posso neanche dire gli appassionati di jazz, di R&B, gli appassionati di musica di qualità. Evviva. E tutti coloro che amano la voce di Greta Panettieri, che da tempo considero una delle migliori vocalist italiane nel mondo. Non posso dire più from New York City, ladies and gentlemen, perché ormai sei tornata in Italia, stai qui, Greta Panettieri, il brano si intitola I'm in Love, c'è anche un bel video. Soundcheck, il suono della musica. L'abbiamo anche vista nel nostro programma televisivo preferito, un programma certamente americano, quello condotto da Jimmy Fallon, il Tonight Show di Jimmy Fallon, e lei è Emily Sandé, che è tornata prepotentemente in auge con questa nuova produzione discografica. Ma Greta Panettieri è nostra ospite qui nel Groovemaster Studio, è tornata, ti piace lo studio? Visto che l'abbiamo rinnovato. Bellissimo. Lo abbiamo imbiancato io e Tromba. Fantastico. Infatti siamo stati costretti nella prima parte della produzione di quest'anno del soundcheck a lavorare cheek to cheek ma non nell'ambiente giusto. Infatti io lo sentivo poi risentendo le puntate che il suono aveva quell'alone, quell'eco che insomma non è proprio da studio. Eh sì, poi con lo studio nuovo è cambiato totalmente, è migliorato tantissimo. Sì, e siamo diventati anche più simpatici perché vedi l'ambiente è più luminoso. C'è questo alone di freschezza comunque. Vero. Sì. Allora Greta, hai realizzato anche un bel video per promuovere il nuovo album che qui presenti, intitolato Sgretolato, ovvero Shattered, e a Francesco è piaciuto moltissimo il video perché bene. Il video è interessante. Che cosa ha di interessante il video di Greta? Sì, vabbè, oltre alle immagini che sono veramente belle, i protagonisti insieme a te sono la coppia omosessuale, la prima coppia omosessuale, esatto, sposata dal sindaco di Roma, esatto, Virginia Raggi. Sì. Ti volevo chiedere com'è nata l'idea e come mai li hai voluti fortemente nel tuo video. Ma l'idea è stata un'illuminazione notturna in realtà, perché questa è una canzone che con Andrea e Jenny Booth, che è l'autrice delle parole, avevamo scritto anni fa addirittura, quando eravamo sotto contratto con la Universal. Poi questo brano, che aveva ovviamente un'altra veste di arrangiamento, non finì nel disco, quello di Edge of Everything che facemmo all'epoca. Però questo brano mi era veramente rimasto in mente e quindi avevo pensato di inserirlo in questo disco. Una notte mi sono svegliata con l'idea, essendo una canzone d'amore proprio all'americana, grande love, grande ballad, siccome insomma ho sempre avuto tanti amici del mondo gay e mi sento comunque molto vicina alle battaglie sociali che comunque questi ragazzi, persone, uomini, donne, combattono da sempre. E mi è venuto in mente di usare questa canzone d'amore per dare forza alla causa della battaglia contro insomma l'omofobia. E quindi poi Francisco e Luca, che sono amici di Massimo Salari, che è il regista del video, le riprese invece le ha fatte la nostra Fiorenza Gherardi, bravissima, esattamente. Siccome Luca e Francisco si sposavano, mi avevano invitato a cantare durante la loro cerimonia, allora lì il guizzo è stato, poi è andato tutto da sé, quindi abbiamo fatto questa automatico cosa. Esatto. Ok, e allora complimenti anche a Fiorenza, che poi nella vita è un ufficio stampa accreditato nel nostro paese. Ci si sgretola in tanti mestieri, come vedi. Allora intanto complimenti anche perché come sempre scegli molto bene i musicisti che poi partecipano alle tue produzioni discografiche. Che vorrei soltanto citare alcuni guest, poi amici, da Max Ionata al tenore, Alfonso De Ida al soprano, Cristiano Arcelli sempre al contralto, Francesco Diodati, bravissimo chitarrista della nuova generazione, Daniele Mencarelli al basso elettrico. Però insomma è forte perché c'è un team italiano di musicisti che hanno assimilato il linguaggio black, che poi sì, è quello che ti piace. Sì, sì, sì, assolutamente. Allora, il tutto condito dai suoni e dagli arrangiamenti di Andrea Sammartino, che purtroppo è fidanzato di Greta ormai da 12 anni, quindi non c'è niente da fare. Va bene Greta, dai, lo sai che scherzo perché siamo amici da tanti anni. Il brano che ascoltiamo adesso si intitola Less is More. Ci puoi raccontare questo brano invece? Sì, questo brano ha rischiato di essere un title track addirittura, perché poi solo dopo ho pensato a Sgretolata, perché appunto sia musicalmente che proprio concettualmente mi interessava molto questo concetto di less is more applicato sia alla musica, quindi in realtà è un arrangiamento molto scarno, è veramente pianoforte, basso e batteria e voce, e di se una canzone bella funziona con, esatto, pianoforte o chitarra e hai, voce, hai vinto. E quindi diciamo che musicalmente, essendo poi il disco molto ricco, infatti chiudiamo l'album con questo brano, volevo dare questo tocco di rilassatezza proprio musicale e anche poi concettualmente con il testo, e è una canzone che mi piace molto e quindi finisce poi strumentale, accompagna la coda del disco. Soundcheck, il suono della musica. E qui con noi Greta Panettieri, che qui canta questa melodia abbastanza complessa, scritta da Pasquale Strizzi, nostro amico, eccellente musicista, che ha frequentato il Berklee College of Music a Boston, poi tanti anni a New York, a Los Angeles, e poi anche lui è tornato in Italia, perché qui si sta bene, si mangia molto bene, anche se il paese si sta sgretolando, così come ci canta Greta Panettieri. Sgretolata è proprio il titolo del nuovo album. Brano intitolato Who Am I, devo dire fantastico, è uno dei miei preferiti di Fun Slow Ride, progetto Fun Slow Ride, progetto corale collettivo che ha visto coinvolti tanti musicisti italiani formidabili, ma anche alcuni fra i migliori vocalist newyorkesi della nuova generazione. E come sempre gran parte dei testi di questo progetto sono stati scritti da Greta Panettieri, che ha avuto la pazienza di frequentare questo studio ormai 2-3 anni fa, e insieme abbiamo lavorato sui brani. Io ancora ti ringrazio, perché abbiamo scritto delle cose molto belle. Eh sì, ma ti ringrazio io, perché è stato bellissimo tutto dall'inizio alla fine, come sempre. Allora, quando ci siamo visti in studio per Who Am I, certo non è un brano facilissimo da cantare, intanto perché stare sul tempo con questa melodia è una cosa che praticamente in questo momento fanno soltanto i neri. Mm-mm. Che hanno un certo tipo di scuola, invece tu l'hai fatto con grande naturalezza. E, e quanto ti mancano gli Stati Uniti? Ma guarda, ci pensavo proprio ieri sera e mi mancano molto, molto, più che gli Stati Uniti mi manca New York. Mi manca New York, mi mancano molti dei miei amici, mi manca il mio quartiere, mi mancano la quotidianità newyorkese, mi manca molto. Qual era il tuo quartiere? Ne ho girati tanti, da Harlem, tutti i miei quartieri mi mancano, però negli ultimi anni, insomma, vivevo nel Far East Village, quindi a Tompkins Square Park. Però tu un paio di volte all'anno una capatina a New York te la fai, sì, perché vai a trovare gli amici, fai concerti nei club, vai a trovare un signore che è stato molto importante per te a New York, che è Pete Carma. Esatto, che esatto. Poi scrive un blog, e adesso ho notato che il blog è diventato importantissimo per la musica indie. È importante, sì, è cresciuto incredibilmente. Alla fine sono veramente molto contenta, anche perché in realtà sono io che suggerì a Pete di iniziare a fare un blog, perché lui mi disse: io devo dire al mondo quanto sei brava. Dico: guarda, fai un blog. E quindi è iniziata così, e lui mi dà credito di questa idea. È vero, ha iniziato scrivendo il blog pensando sempre a Greta, e poi invece si è lasciato andare, e noto per che il blog descrive il lavoro di altre vocalist quasi tutte carine. Perché Pete alza l'occhietto lungo. Hai capito? Come fa tu pure, tromba, se vuoi rimorchiare devi fare un blog. Pure io do all'occhio la sua importanza, quindi spesso cerco la musica anche in base alla parte visuale, diciamo. Se non fosse che mi ha fatto fare una brutta figura tempo fa, quando abbiamo realizzato una puntata di variazioni su tema, dove io in qualche modo cercavo di raccontare i sogni degli artisti, e io sogno, vedi la differenza tra me e lui, io sogno Didi Bridgewater che mi racconta cose musicali, spirituali, blues, e lui invece sogna Belen Rodriguez. Vabbè, è così. Sei fatto così, che vuoi che fare? Che vuoi fare, ragazzi? Allora, parlando di Fun Slow Ride, uno dei brani forse portanti di questa produzione è quello cantato dal bravissimo Alan Hampton. Il brano si intitola Next, e il testo è stato scritto proprio da Alan Hampton e Greta Panettieri. Soundcheck, il suono della musica. Un altro brano tratto da Shattered, ovvero Sgretolata, per Greta Panettieri, nostra ospite. Brano scritto sempre con la complicità di Andrea Sammartino, che salutiamo, e facciamo i complimenti a questo formidabile producer italiano che negli Stati Uniti, esattamente a New York, siccome si chiama Andrea, e allora invece lì Andrea è un nome da donna, lui si sentiva sempre in imbarazzo, perché quando veniva presentato gli americani ridevano. Succedeva. Allora cambiò il nome pensandone uno che secondo me è geniale, Rocky Salento. Sì, è lui. Meraviglioso, quindi per me Andrea resta Rocky Salento. Esatto. Ha un canale peraltro YouTube, cioè quando vedete delle cose strane pubblicate che mi riguardano, di solito sotto c'è Rocky Salento. C'è sempre Rocky Salento. Allora, Look Back, il brano che abbiamo appena ascoltato, ma nell'album di Greta ci sono senz'altro brani in lingua inglese che vi abbiamo presentato, ce n'è uno in portoghese e brasiliano, perché quella è un'altra passione di Greta. Esatto. Composizione originale, Pensamento Feliz, giusto? Pensamento Feliz. Pensamento Feliz. E poi ci sono anche dei brani in italiano. Esatto. E per scrivere questi brani, che cosa ha fatto la nostra Greta? Ha chiamato addirittura Greg di Greg e Lillo. Esatto, Greg e Lillo, poi gliela propongo come nuovo nome per Lillo e Greg, dove Greg è il... Mi piace, sì. Poi glielo propongo, sì. No, vabbè, ma... No, ma sto scherzando. Greg è un personaggio incredibile. Veramente un talento esagerato. Una mente molto veloce, devo dire. È stato divertentissimo e ora faremo finalmente dei concerti insieme. Quindi il 22 di gennaio saremo a Catania, in questo locale che si chiama Zoo. E ovviamente incastrarsi con i suoi impegni è veramente complicato, però insomma stiamo lavorando per avere almeno altri due o tre concerti insieme, quindi insomma questa è una cosa che mi fa molto piacere. E poi volevo ricordare il bravissimo Pigi Siciliani, che ha scritto invece le parole per Non ci giurerei. Bene, e quindi che cosa farai con Greg? Swing, lui è un grande appassionato di swing, rock and roll, è anche molto preparato, conosce tutto il repertorio di lui prima e via dicendo. No, infatti c'è da divertirsi e c'ha peraltro una voce incredibile. Perché, no, è formidabile, formidabile come attore, comico, autore eccezionale, i programmi in radio che fa. sono splendidi. Ma quindi sono molto molto molto contenta. C'è un altro brano molto interessante nel disco che ho ascoltato, che è Life on Mars, una tua versione del brano famoso di David Bowie. Ti volevo chiedere se ti è mai capitato, in questo caso, come magari in altri casi quando hai fatto delle cover, di trovarti un pochettino magari in difficoltà nel riproporre il brano di un artista noto a tutto il mondo e che magari appunto ti ha messo in soggezione. Ma in realtà, guarda, questa è una cosa che proprio a me non succede, perché quando una canzone è così bella, allora, io ho cantato Life on Mars per la prima volta lo scorso anno all'Aria che tira alla 7, quando poi David Bowie è venuto a mancare, e la canzone mi ha praticamente rapito dal di dentro, per cui per me tutti i problemi di critica, di giudizio, alla fine non mi interessano. La canzone è così bella e così forte che tutto il resto perde significato. Greta, vorrei restare ancora con te, purtroppo però ti dobbiamo salutare. No. Sì, però tu puoi tornare quando vuoi. Certo. E intanto ti anticipo che sto scrivendo delle cose nuove, quindi torneremo a fare qualcosa insieme. Evviva! Greta Panettieri è stata con noi, io ringrazio anche Fiorenza Gherardi, perché ce l'abbiamo qui di fronte a noi, è sempre un bel vedere Fiorenza, e complimenti anche per la tua attività. Non sapevo che tu fossi una filmmaker pure, anche questo. Bene, grazie a Francesco Tromba. Noi ci rivediamo domani, caro Francesco, alle 19:15, sempre su questi schermi con il soundcheck, e vi lascio con il suono di questo giovane personaggio che si sta facendo conoscere anche nel nostro paese. Si chiama Youssef Kamal, Joint.